nave ormai era un punto lontano, al confine con l'orizzonte, il mare. Chiara fissava la scia bianca tra le onde, sapeva che un giorno l'avrebbe raggiunto, lo avrebbe fatto, ritorno. Statale si muoveva come un filo d'erba sul prato, il Levante con le sue mille direzioni le spettinava i capelli, i suoi fili gialli, nuvole di passaggio le occupavano lo sguardo e il giorno. Qualche pensiero distratto. Ma intanto il tempo passava, la tela sbiadiva, restava a farda, cornice ad una rosa sfiorita. La sua ultima sigaretta, ascoltando il rumore dei suoi passi al rientro, senza badare al cane si fece da parte l'ultimo caffè, poi vide la pioggia cadere. Ma intanto il tempo passava, la tela sbiadiva, restava a farda, cornice ad una rosa sfiorita.